Allora, l'idea è nata molto semplicemente. E non era ripercorrere, non era assolutamente l'idea di un ripercorso. Era l'idea, era è nata così. A Milano, due primavere fa, c'è stata la grande mostra di Ligabue, 300 opere sul Mignaio che ha fatto. Ordinata molto bene, introdotta da Sgarbi con molto spirito, e mette a fuoco bene il personaggio Ligabue, il pittore Ligabue. Io vado, mi invitano all'inaugurazione della mostra, c'è Bucci, ci sono i quadri, c'ero io. Il triangolo era chiuso. Si poteva fare una rivisitazione del personaggio in una chiave che è tutta nel titolo. Ligabue fra fiction e realtà. Cioè, Bucci la realtà di un personaggio guida. Io conoscevo naturalmente i documentari fatti da Andreazzi su Ligabue, vero, reale, e conoscevo abbastanza bene la mia fiction. E da lì è nata l'idea, proposta e corsa, da sola. La sceneggiatura quindi è nata subito, diciamo, l'idea di... La sceneggiatura è una cosa più adatta alla fiction, insomma, al film. Sì. Questo era veramente un cercare, un ritorno mio in questo caso, impersonato da Bucci, sui luoghi del Sorapicco, e dove potevo vedere e confrontare una realtà come quella di Bucci e di Ligabue reale, dai splendidi documentari non splendidi quanto, ma splendido materiale documentario. Sì. Girato da Andreali su questo straordinario personaggio che io conoscevo perché quando ho fatto la fiction li avevo imparati, li avevo cercato di insegnare a Bucci, e alla fine questa congiunzione è stata abbastanza felice. Si è accorto facendo questo documentario che ci fosse ancora qualcosa, diciamo, da dire sul pittore dopo quello che aveva già raccontato? Beh, ma sa, nessuno può avere mai la presunzione di capire una persona prima che un personaggio interamente. Sì. Ligabue era una persona complessa, e chi ha dato le risposte agli interrogativi che abbiamo posto, i vari esperti di tutti i tipi, dalla psichiatra allo psicologo, all'esperto d'arte, a chi l'ha conosciuto, allo storico, eccetera, ha indagato un po' su questo complesso personaggio che si è espresso. Il personaggio che ha avuto un iter di vita così infelice, tutto sommato, che si è espresso e ha trovato una sua realizzazione nella pittura. Ora, questo è un tema nell'arte, quindi questo è un tema molto ricorrente ed è la speranza di Ligabue e quindi la speranza di tutti di trovare in qualche cosa una fonte di felicità. Il suo rapporto col pittore è cambiato dopo questa lavorazione, oppure, diciamo, la sua idea su di lui è rimasta? Il mio rapporto con chi, scusi? Con Ligabue, con il personaggio Ligabue, con la sua arte, cioè dopo aver... Sì, è un po' cambiato, è cambiato nel senso che l'ho visto più reale, più libero da schemi di fiction, da schemi narrativi, forse perché sono cambiato io rispetto agli schemi narrativi della fiction che non tollero assolutamente più, e quindi è cambiato anche il rapporto col personaggio. Insomma, il personaggio deve essere reso non realisticamente ma nella realtà. Il suo documentario, credo di esserci riuscito. Il suo documentario a Roma è stato protagonista di un evento molto importante. Com'è stata questa esperienza? Come l'ha vissuta? Ma l'ho vissuta come un vecchio. Di queste esperienze ne ha vissute parecchie. Beh, è sempre piacevole, sempre bello, sempre che la gente riconosca qualche cosa è sempre confortante, e soprattutto adesso che siamo in un momento in cui l'apatia generale e il minimalismo intellettuale sembra dilagante, minimalismo in termini molto negativi, l'appiattimento, per cui suscitare un po' di interesse è già questo un motivo di conforto alla propria opera e al proprio lavoro. Che futuro avrà adesso questo documentario? Credo che vada in onda su Rai 1 e poi sia venduto, insomma, in giro. Come è stato la figura è stata vendutissima all'estero, ma insomma erano altri tempi. Adesso speriamo che anche questo abbia. Ma forse le televisioni, diciamo, di qualche paese non hanno solo, hanno anche qualche motivo, vecchio motivo culturale da coltivare, e allora magari lo apprezzano. Certo. Lei invece che progetti ha? Sta lavorando su qualcosa adesso? Sto lavorando su due progetti, uno in fase di realizzazione, ed è un mio discorso su un mostro sacro della cultura mondiale, ipermondiale, che si chiama Leonardo da Vinci, che è stato trattato da tutti in maniera molto, molto, molto approfondita, di glorificazione, eccetera, eccetera, ma di cui io credo si sappia poco. E quindi più che una rivisitazione del personaggio, mi interessa capire chi era. E l'altro progetto? E l'altro un po' più complesso, è ancora in fase di meditazione. Okay. Comunque sempre documentari, diceva che la fiction non la... No, la prosa di quell'altro è un po' fiction. Ah, ok. Però con alla ricerca di nuovi di linguaggi, non nuovi perché il linguaggio non è mai nuovo, ma alla ricerca di linguaggi diversi e spoliazione da luoghi comuni.